Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Scendiamo un po'. La corda fissata sullo zaino pende troppo da un lato e rischia di farmi inciampare. Finalmente vedo il tetto giallo del bivacco. Sono ancora vivo, siamo ancora vivi. Patrizia è arrivata qualche secondo prima di me. Ci guardiamo increduli perché è come se fossimo nati per la seconda volta. Il temporale è scomparso così come era venuto e tutto torna alla normalità, come se nulla fosse successo. Mi chiamo Alberto Di Palma, abito a Montevecchia in provincia di Lecco, ho 40 anni, sono separato con una bimba di quasi 6 anni e faccio l'insegnante. Ho scoperto, in letture sparse e caotiche che faccio ogni tanto, soprattutto riguardo di zoologia, o zootecnia, zoologia, di animali, di zoologia, stai buono, zoologia. Anzi, in realtà parlando di insetti è una parte della zoologia che è l'entomologia, però una volta magari prepararsi 10 minuti prima, quando devi dire una cosa, visto che siamo a Radio 24. Ho scoperto, leggendo di entomologia, che esiste un insetto particolare di cui non ricordo esattamente il nome, che vive nella foresta amazzonica, su una pianta particolare della foresta amazzonica. Questo insetto, che ha un'aspettativa di vita di 2 mesi, mi pare, non di più, basa la sua stessa sopravvivenza, o meglio metà della sua vita, della sopravvivenza della sua vita, sulla fiducia nei confronti di uno sconosciuto. Cioè, quello che succede a questo insetto è che per un mese più o meno, per metà della sua vita, lui si procaccia il cibo, vive la sua vita e fa quello che fanno gli animali e gli insetti, in sostanza mangiano, dormono e cercano di tirare avanti. Da un certo punto in avanti, più o meno da metà della sua vita, dopo un mese di vita, lui di fatto si abbandona. Cioè si lascia morire e affida la sua vita nelle mani di un altro insetto, che è chiaramente della sua specie, che gli porta il cibo, lo accudisce, e questo poi farà lo stesso con un altro insetto. Quindi questo piccolo individuo semplicemente basa la sua vita sulla fiducia nei confronti di uno sconosciuto, perché gli insetti non è che vivano in gruppo, no? Vivono una vita solitaria, è terribile essendo degli insetti, però basa la sua vita solo sulla fiducia nei confronti di un altro. E io che sono cresciuto sentendomi dire non fermarti per la strada, non aprire la porta se non sai chi è, non prendere cameramelle da uno sconosciuto. E tu pensa, un insetto della foresta amazzonica, ieri stambecchi, oggi insetti, domani chi lo sa. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Oggi si parla di fiducia, lo si fa attraverso il racconto di Alberto, che racconta una parte, racconta la punta dell'iceberg di quella cosa lì, no? Del fidarsi di qualcuno e di mettere la propria vita nelle mani di qualcuno. In questo caso è perché lui parla di una storia di montagna in cui si fa sicurezza, no? Si dice Tiziano, cioè si sale in due, però uno sale e l'altro assicura quello che sta salendo, e quindi quello che sale semplicemente si fida di quello che sta giù. Prima ancora lui si è fidato semplicemente del fatto che quella che aveva sentito era solo la voce di una persona che non conosceva, ma il racconto ve lo spiegherà meglio. Se però vi è capitato nella vostra vita, e vi sarà capitato, no? Di fidarvi di uno sconosciuto, di mettere magari non proprio la vostra vita, però una parte della vostra vita, magari una serata, magari una vacanza, magari una mezza giornata in cui c'era qualcosa che andava storto, e di aver affidato per un motivo o per l'altro la vostra vita nelle mani di uno che non conoscevate ed è andata bene, perché che va male lo sappiamo come va quando va male. 349-238-6666. Vi faccio un esempio. Daniela ha scritto sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, più di 30 anni fa ad Istanbul di notte, zona porto, ci eravamo persi e ci trovavamo in difficoltà e stavamo cercando un taxi, eravamo preoccupati e ci sentivamo in pericolo in quel posto di notte. Un signore turco, sentendoci parlare, si ferma e ci chiede il nome dell'hotel, ci fa segno di salire su una macchina, presumibilmente un taxi, ma non si capiva cos'era. Noi, presi dalla paura del luogo, saliamo e ci fidiamo di quest'uomo. Questo tizio, che non è nemmeno l'autista, dice qualcosa all'autista ma non sale. Questione di attimi, la macchina parte veloce e noi cominciamo ad immaginare di tutto: rapimento, rapina, botte. Insomma, per farla breve, ci ha lasciato esattamente davanti all'hotel. Ci siamo fidati e mi rincresce addirittura che manco l'abbiamo ringraziato. Sono passati tanti anni e me lo ricordo ancora bene. Grazie, gentile signore sconosciuto. 349-238-6666. Sono storie fare come queste, quelle di cui parliamo oggi, o come quelle dell'insetto che si lascia morire e si affida a un insetto sconosciuto, o altrimenti storie come quelle di Alberto. Patrizia fino a 2 giorni fa era solo una voce, fino a 3 giorni fa solo un messaggio su un forum internet dedicato alla montagna. Ieri Patrizia è stata una compagna di cordata, oggi è un'amica. 3 giorni fa mi ha proposto di fare con lei una scalata, lo spigolo nord del Pizzo Badile. Io pensavo che per conoscersi tra compagni di cordata fossero necessarie tante uscite, prima in falesia e poi su itinerari man mano più impegnativi, però in montagna. Lei invece, senza nemmeno avermi mai visto o conosciuto di persona, mi propone una salita di 1200 metri in alta montagna, pur se accompagnati da altre cordate di amici suoi. Penso che no, non è possibile, devo aver capito male. Eppure quella voce insiste garbatamente nella sua intenzione. Le rispondo che ci devo pensare. In fondo non ho mai fatto una salita su roccia così lunga, anche se le difficoltà dello spigolo in questione sono decisamente basse rispetto alla mia capacità. Però quella voce ha qualcosa di rassicurante, che da subito so che accetterò. La parte razionale di me mi impone di avere più informazioni. Chiedo ad un amico che conosce il gruppo, con cui affronterò l'ascensione, qualche informazione. È un tipo strano, mi dice. Beh, strano in che senso, scusami? Boh, strano. Ecco, fantastico. Proprio quello che cercavo. Una compagna di cordata strana. Nel frattempo la voce di Patrizia torna alla carica e io alla fine cedo. Ok, ci sto. Per una persona che scala, il mettere la propria vita nelle mani del compagno è una cosa normale, per cui diciamo che lo si impara subito e certamente non si scala con il primo che capita. In questo caso io ho fatto un'eccezione, ma perché sentivo dentro che quella era la persona giusta per fare quella scalata. Decidiamo di trovarci in una falesia vicino a casa sua per conoscerci e per partire poi alla volta del rifugio Saskfura, base d'appoggio per il versante svizzero del Badile. Solo che accade tutto troppo velocemente. Io arrivo in ritardo all'appuntamento, arrampichiamo un po', parliamo della salita. Lei vuole andare a comando alternato. Le dico che non sono mai andato a comando alternato con una donna, che ho sempre fatto io il capocordata. Dopo aver pranzato e aver parlato di tutto, tranne che della salitina di 1200 metri che avremmo affrontato il giorno dopo, partiamo. Decidiamo che lasceremo la mia auto in Valmasino e con la sua raggiungeremo la Valbondasca. In viaggio verso la Svizzera apprendiamo che i due componenti della spedizione sono fermi con l'auto in panne. Dietro front e andiamo a prenderli all'officina che li ha recuperati. Proseguiamo in 4, Loredana e Davide. Sono simpatici e sembra un tipo molto indipendente e deciso, lui uno tranquillo. Davide non ha mai fatto una via così lunga. Loredana invece ha già salito lo scorso anno lo spigolo con un compagno più esperto e questa volta sarà lei capocordata. Arrivati al rifugio è quasi buio. Patrizia mi presenta agli altri membri del gruppo. Siamo in tanti, troppi per i miei gusti. Io che storco il naso se ho solo una cordata davanti a me. Tant'è, ho voluto la bicicletta. Ore 3:45, sveglia, colazione, pronti, via. La carovana Spigolo Nord si mette in moto e si snoda luccicante al buio verso la montagna. Io cerco di essere più veloce possibile. Patrizia mi segue rapida e sicura. Ci intendiamo al volo e a ogni tiro ci scambiamo il comando della cordata. Loredana e Davide ci seguono a breve distanza. Ore 9. Siamo a poco più di un terzo dello spigolo. Il tempo comincia a peggiorare. Le previsioni non ci prendono mai. Piovigina. Comincio a pensare all'inevitabile ritirata. Poi, quando anche Loredana arriva in sosta, la pioggia smette. Si alza il vento e lo spigolo, magicamente, si asciuga. Ok, si prosegue. Ricompare il sole che si era appena intravisto qualche ora prima. Ma poi si ricopre all'improvviso. E quando ormai mancano forse 50 metri alla cima e qualcuno di più al bivacco, inizia a grandinare. Cosa spinge una persona a scalare? Beh, sono tante cose. Sicuramente il fatto quindi di essere un ambiente che ti fa stare bene, quello della montagna. La sfida, sicuramente la sfida con se stessi è una molla molto forte. Per me poi anche il piacere della scalata, del gesto, anche del semplice gesto dello scalare. Scoppia un temporale. Tuoni e fulmini ovunque. Patrizia sta arrivando, mi supera. Sistemo la corda sullo zaino, le grido di correre. Una scarica mi colpisce al braccio destro appoggiato alla roccia. Ora capisco cosa vuol dire sentirsi arrivati quasi al capolinea. Mi colpisce un'altra scarica. Resto in piedi e continuo a correre. Mi trovo su una cresta piena di massi affilati pronti a trasformarsi in parafulmini. Ecco, il pericolo sono i fulmini. Patrizia è pochi metri davanti a me e siamo finalmente in cima, ma quando arriva sto bivacco? Il mio corpo si muove da solo, senza bisogno di un controllo. La mente è già altrove. Quasi rassegnata, lui no invece, cerca una via d'uscita. Scendiamo un po'. La corda fissata sullo zaino pende troppo da un lato e rischia di farmi inciampare. Finalmente vedo il tetto giallo del bivacco. Sono ancora vivo, siamo ancora vivi. Patrizia è arrivata qualche secondo prima di me. Ci guardiamo increduli, perché è come se fossimo nati per la seconda volta. Il temporale è scomparso, così come era arrivato, e tutto torna alla normalità, come se niente fosse successo. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Perché la fiducia è una cosa complessa. Il dizionario la descrive così: atteggiamento verso altri e verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità. E generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità, ad esempio fiducia in Dio, negli uomini, nella fraternità umana, nella scienza, nel progresso sociale. Solo che tutti gli esempi che il vocabolario porta sono in realtà in contraddizione con la definizione. Cioè, se la fiducia necessita di una valutazione positiva dei fatti, come si fa quando i fatti non ci sono oppure rimangono nascosti? Cioè, come si fa ad avere fiducia in Dio o nelle relazioni o nelle cose che non si possono misurare? La fiducia, secondo me, non è quella che scrivono i dizionari. È più un dono. Qualcuno ce l'ha e qualcun altro no. Perché la fiducia non si può sempre conquistare, se no non ci sarebbe mai una prima volta, no? In qualsiasi rapporto, in qualsiasi impresa. E secondo me è molto legata all'idea di speranza. Io sono fiducioso, ad esempio, che questa torta che non ho mai preparato verrà bene, e non perché l'ho fatta mille volte, ma perché sono ottimista e voglio pensare positivo. Cioè, io spero che verrà bene. Non c'è valutazione dei fatti che mi possa aiutare in questa cosa qua. E così con l'esistenza di qualsiasi entità superiore, no? Che sia Manitou, Allah, la Dea Kali, chiunque. Nessuno si è mai fatto vedere da me e io posso solo sperare, avere fede, fiducia. Però non è che stia proprio valutando dei fatti, no? E allora avere fiducia, secondo me, è un'attitudine, è un po' una disposizione d'animo, un po' un atteggiamento, è un po' una gran botta di fortuna. A volte ti può portare a metterti nelle mani di brutta gente, a volte no, ma ti consente di avere una vita più sorridente, più serena. Ti consente di vivere non come se fossi in perenne battaglia, ma come se esistesse qualcosa che ti unisce un po' al resto del mondo. La speranza e la fiducia sono dei doni. Sì, va bene, è un periodo che sto vedendo forse un po' troppi film di Terrence Malick, lo ammetto, ma non è una cosa cattiva, no, in fondo. Alla fine, io il dono della fiducia non è che ce l'abbia proprio, però mi piacerebbe così tanto esserne pieno, che provo quasi ad allenarmi. E allora, ad esempio, se mi capita, come l'altra sera, di vedere tre ragazzotti che escono furtivamente da un portone con delle borsone e salgono in una macchina che li aspetta accesa, penso solo che sono degli amici che hanno fretta di andare a farsi un weekend al lago, ad esempio. Poi magari sono dei ladri, non lo so, hanno appena scassinato con un piede di porco la casa del secondo piano. Però io ho il sangue meno amaro. E poi che ci potevo fare? Seguirli. E tra le mie prove per cercare di vivere meglio c'è stata una volta, di notte, su una strada provinciale, che è un po' quello che capita a tutti, no? Avete presente? Sarà capitato di essere su una strada di notte, da soli, e vedere uno con un'auto in panne. Ecco, in quel caso lì io credo che se ho superato quella, vuol dire che un po' sto andando nella direzione giusta e che magari ci riuscirò. Era buio, faceva freddo, proprio come nei film dell'orrore. E c'era un'auto sul bordo della strada, con una ruota a terra. Distinto ovviamente passo, guardo e penso, è sfiga bucare di notte su una provinciale. Poi penso che dovrei dargli una mano magari, perché potrei esserci io lì. E che non devo avere paura di qualcuno che è in difficoltà, anche se effettivamente sembrava una situazione balorda. Che può finire che in un attimo rimango a piedi, con la macchina e il portafoglio che se ne vanno via, in un attimo. E allora mi fermo, faccio inversione, torno indietro e vado da quest'uomo che forse ha più paura di me, non lo so. E ci guardiamo un po' in cagnesco, non sembriamo uno che chiede aiuto e un altro che glielo dà. Però poi ci stringiamo la mano e io lo aiuto a cambiare sta ruota perché lui era pure molto impacciato. E alla fine sto tizio era così felice che mi ha pure invitato a cena in una trattoria di un paese lì vicino. Ed è stata una bella serata. Ho chiacchierato con uno che non conoscevo. Ho mangiato pollo arrosto con le mani sporche di grasso. E poi alla fine ci siamo salutati di notte dopo esserci scambiati delle confidenze che sinceramente non concedevo nemmeno ai miei migliori amici. poi ovviamente ci siamo promessi di rivederci e non è mai successo. Ma va bene così. Più sentiti. Però almeno ho imparato definitivamente che la fiducia non ce la si deve proprio sempre guadagnare. E a volte arriva, a volte scopre che ce l'avevi dentro e che era semplicemente solo un po' nascosta. (349) 238 6666. Ringrazio tutti quelli che sono sempre cortesi, diretti soprattutto nel mandare questi messaggi, tipo: e poi quando questi geni rimangono bloccati sulle cime devono essere recuperati con i mezzi pagati da tutti noi, io li farei star là e vedere se riescono a volare. Ma cos'è successo oggi? A parte che mi pare, esatto, che si paghi proprio di tasca propria e non poco quando si viene tipo a prenderti un elicottero. Adesso non ricordo le cifre, ma so di gente che ha tirato fuori soldi di tasca propria. Ma poi, ma aspetta un attimo, ma anche se fosse, ma cosa c'è di storto in questa giornata? Cosa ti è successo? Se vuoi ne parliamo, magari non con me, magari... Conosco un analista molto bravo di solito che gestisce questi problemi con gli SMS. E poi c'è un altro che mi scrive... Vabbè, al di là di tutta questa patetica retorica, ci hai mai pensato che in ogni operazione chirurgica il malato mette la propria vita nelle mani di uno sconosciuto? Beh, guarda, sì, ci ho pensato effettivamente, però di solito uno quando si fa infilare le mani da uno sconosciuto in una sala operatoria è perché c'è qualcosa già che non va, no? Quindi lì si deve fidare del chirurgo. Comunque, al di là di tutta questa patetica retorica, io farei così. Sentirei Alberto che in quella situazione si è trovata. Pronto, Alberto? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, tu ridi perché cosa? Perché ti senti, devono venire a prendere un elicottero e pagare di tasca? Quanto costa? Quanto costa un recupero in elicottero? Beh, parecchio, ma comunque si è coperti dal 118, dal servizio del 118 in, okay, Italia, e se si ha la tessera CAI anche in altri stati che hanno una convenzione col CAI sostanzialmente non costa nulla. Okay. Questo non vuol dire che si debba azzardare a andare a cacciarsi nei guai con la certezza di essere recuperati, certezza che poi non c'è. Immagino, ma anche... Certo, nel senso che non è che ti vengono a prendere proprio sempre, ovunque, no, al momento opportuno. Alberto, scusami, tra l'altro partiamo da qua, perché la cosa che mi ha colpito è che tu, cioè, quando dici che sei stato colpito da una scarica di un fulmine, ma di riflesso ovviamente, altrimenti sì, non eri qui. No, assolutamente non era una scarica diretta, però ti assicuro che non è stata una bella sensazione. Cioè, nel senso che cosa ha colpito? Un masso a cui tu eri appoggiato? Esatto, sì, assolutamente. E che cosa si prova esattamente? È un po' quello che si prova quando da piccoli si mettono le dita nella presa di corrente, è una scarica forte, ecco. Dopodiché mi ha solo un attimo intontito, ma dopodiché sono riuscito a correre via subito. Senti, poi, l'adrenalina è fortissima in quei momenti, per cui lo immagino. Una spinta tremenda. Mi ricordi quanti anni hai, Alberto? 40 hai detto? 40, sì, 40. 40 e sei un insegnante? Sono un insegnante, sì, di matematica e scienze in una scuola media. Di matematica e scienze? Sì. Ma quindi cosa hai studiato? Matematica? No, in realtà sono laureato in geologia. Ho seguito un percorso un po' tortuoso per arrivare a insegnare matematica. Cosa hai spiegato stamattina a scuola? Ma questa mattina sono state due lezioni di matematica, aritmetica. Ma quindi tipo? Le equazioni? No, le equazioni no, perché non ci siamo ancora arrivati con la terza, problemi di società in terza e invece il sistema di numerazione decimale in prima. Benissimo. Ecco. Senti, invece la vedi ancora questa ragazza? No, ci siamo un po' persi di vista, l'ho sentita proprio qualche giorno fa, e un po' perché frequentiamo compagnie diverse, un po' siamo lontani, e insomma ci siamo visti ancora dopo, se non ricordo male, poi appunto ci siamo persi di vista. Ma era una tipa in gamba, mi sembra di capire. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi sì. Lei non scala più, fa escursionismo, sci alpinismo. Sì, assolutamente in gamba. Senti, quando tu dici, a parte che credo di aver capito la differenza tra la salita alternata, cioè che sale uno, arriva in cima, poi sale l'altro, giusto? Per cui i capi cordata sono due alternati. Quando dici che non l'avevi mai fatto con una donna, è una questione sessista o semplicemente che... No, assolutamente no, ecco, volevo proprio precisarlo. No, semplicemente non mi era mai capitato, ecco, no. E... mi piacerebbe molto, ecco, fare delle vie anche di un certo livello, okay, con una compagna donna. Assolutamente. Alberto, senti, adesso ti devo salutare. L'ultima cosa, tu sei di Montevecchia? Ma a Montevecchia, sì, ci venivo a mangiare la polenta, possibile? In una specie di trattoria che adesso non ricordo come si chiamava, però vabbè, un po' anche chi se ne frega. Alberto, grazie mille per il tuo racconto e per le chiacchiere. Ti auguro una buona serata. Grazie a te, ciao. Tanto. Grazie tanto. Mille. Voi siete qui. Come fanno tutti gli autori dei racconti che leggo ogni giorno uno diverso, anche Alberto ci ha mandato una sua foto, una foto che lo raffigura e che è di fatto un ritratto. La trovate sul sito radio24.it, alla pagina Voi siete qui, ed è in montagna ovviamente in questa foto, anche se non è, credo, in tenuta da montagna, è più in tenuta da moto. Comunque dietro ha delle falesie, direi, ma dico cose a caso, insomma, ha delle montagne. C'è il cielo azzurro striato di qualche nuvola bianca. Alberto ha una bella faccia. Alberto ha una faccia lunga, proprio genere faccia lunga, con una bella fronte spaziosa, delle labbra spesse, i capelli corti e degli occhiali da insegnante di matematica. Lei praticamente mi sta dicendo che neanche lei crede. No, ma ancora questo crede? Ma che c'entra? Quello è il lavoro. Un conto è il lavoro. A me mi interessa soltanto ogni tanto per la curiosità mia di sapere come è fatto l'universo quello vero. Anche perché noi poracci per tutto il giorno stiamo in un mondo di fantasia. Ma pure te ogni tanto dovrai staccare o te porti il lavoro pure a casa, scusa. È che prima Andrea mi ha mandato questo messaggio. Secondo me quella che hai descritto è più la fede o la speranza. E allora abbiamo pensato di mettere questo pezzo, che è uno dei pezzi caldi, Corrado Guzzanti, che è secondo me uno dei personaggi più belli, che è Don Pizzarro, che parla spesso di fede, scienza e di lavoro anche in qualche modo. 349-238-6666. Giovanni da Livorno mi scrive: tutti i giorni centinaia di persone mi affidano la loro vita, faccio il conducente di autobus. Ma Giovanni, l'avevamo sentito Giovanni da Livorno, forse? No, non era da Livorno, era da altrove. Pensa, mi sono fidato dei conti di mia moglie, mi ci sono addormentato e lei è rimasta incinta. Alex, anche te. Namibia, deserto, gamba rotta, mia moglie rotta gamba. Aspetta un attimo, ha scritto: Namibia, deserto, rotto gamba, mia moglie, lo sconosciuto ci salva, ora è il mio migliore amico, Max. Allora, credo che sia così da tradurre. Mia moglie si rompe la gamba, arriva uno sconosciuto, ci salva e ora è un nostro grande amico. E poi, con auto a noleggio, in Marocco con mia moglie, una Peugeot 104. Peugeot 104? Giusto i giostrai e nel Marocco proprio, perché da quando è che non si... Ma esiste una Peugeot 104? Credevo esistesse solo dalla 206 in su. Alle porte del deserto, dove non saremmo andati, diamo un passaggio ad un ragazzo del posto. Dice che ci porta lui nel deserto. E lo fa. Grandi dune. Se era pieno di guide e grossi fuoristrada, non ci credevano neanche le guide. Era la guida... Vabbè, abbiamo usato la parola guide 4 volte nello stesso SMS, è il record del mondo. Lui, sto ragazzo, era la guida più apprezzata da tutti i colleghi. Firmato Franco. Ah, ma ho capito perché. Perché li ha portati laddove c'erano grandi fuoristrada con una Peugeot da giostraio, una Peugeot 104. La fiducia in una persona o in una cosa, mi scrive Corrado, si fonda sulla fiducia in bianco nel genere umano. Ma... boh, magari anche no, magari ogni tanto ti viene semplicemente che dici: vabbè, dai, stavolta mi fido. E di solito quella è la volta sbagliata. Visto che si parlava di fiducia, l'altro giorno ci è venuto in mente che questa è una parola che spesso, molto spesso, leggiamo quotidianamente sui giornali, legata ad altro, legata a quella che viene definita la questione di fiducia, che però per tutti è semplicemente: il governo chiede la fiducia o il governo ottiene la fiducia. E questa fa parte di quel genere di informazioni che, devo dire, ogni tanto i giornalisti danno per scontato. Cioè, si fidano del fatto che uno sappia che cos'è, no? La questione di fiducia. Oppure uno ci arriva perché sente l'esperto che viene chiamato in causa. Però spesso e volentieri, soprattutto chi si occupa di politica, dà per scontato un sacco di cose che magari uno che non ha studiato educazione civica o ha studiato poco la storia o semplicemente è leggermente distratto non sa di che cosa si parli. E allora oggi, anche se veramente c'entra una mazza con l'idea di fidarsi di qualcuno, vorrei semplicemente fare un piccolo excursus riguardo a questa cosa qua. Sì, è vero, insomma, mica tanto c'entra, perché ha proprio a che fare con la fiducia, come giustamente mi fa notare Bonini. Su che cos'è esattamente la questione di fiducia? Allora, in Italia la questione di fiducia è un istituto della forma di governo parlamentare che è riservato al governo. Non è previsto dalla Costituzione, ma è disciplinato dai regolamenti interni della Camera e del Senato. Il governo pone la questione di fiducia su una legge o su un emendamento ad una legge, qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e quindi facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Nella pratica politica, tale strumento viene usato dal governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo delle opposizioni. Ponendo la fiducia, tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera e del Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Mi scrivono che la Peugeot 104 è un'auto d'epoca, me lo scrive Gigi, e addirittura un altro mi scrive: sei troppo giovane per la 104. Probabilmente sì, e sinceramente non me ne dispiaccio particolarmente. Sono arrivati invece dei messaggi sul profilo Facebook del programma che raccontavano non tanto della volta in cui ci si è fidati di qualcuno, ma di chi è la cosa, la persona di cui vi fidate di più, e l'elenco è abbastanza bizzarro. Davide dell'oroscopo, Carlo del mio cane, Sonia della mia pancia, Chiara della mia mamma, Francesca dell'istinto, Francesco della sfiga, Simona di mio papà, Laura del mio olfatto, Cesare della matematica e del mio Nissan King Cab del 1990, che non so cosa sia, credo un fuoristrada. E poi c'è stato uno scambio veramente tenerissimo tra due sorelle, che immagino siano sorelle perché hanno lo stesso nome e si citano. Rebecca scrive: di mia sorella. Elisabetta le risponde: sei una ruffiana. E vorrei chiudere però raccontandovi invece la regola maestra è fidarsi sempre con semplicità, ma a un... vabbè, non posso leggere questo messaggio. Milano, io e mia moglie rimaniamo a piedi con un'auto, uno sconosciuto ci aiuta, ora mia moglie vive con lui. Non è vero, no, non ci credo. Ebbene, io credo che istituirò però anche veramente un premio per la miglior mail di accompagnamento ai racconti che arrivano. Visto che tutti i giorni arrivano dei racconti, tutti i giorni infatti vi ringrazio per continuare a mandarli, un episodio della vostra vita raccontato in una pagina, una storia realmente accaduta, voi siete qui, @radio24.it, alcuni fanno copia e incolla e li mandano, altri invece li usano, li mettono in allegato e scrivono una mail di presentazione. Ve ne leggo un paio. Ciao Matteo e ciao a tutta la redazione. Sono Chiara, ascolto Matteo fin dai tempi di Vendo Tutto, anche se vivo a Londra. Ho comprato una radio digitale qualche mese fa apposta per potermi svegliare e addormentare con Radio 24, anche fuori dall'Italia. Ho provato a scrivere un racconto di quelli che cercate voi. Che non so esattamente che tipo di racconti cerchiamo, però mi piace che stiamo cercando di racconti. Non so se ci sia troppo poca narrazione e troppe riflessioni. Spero vi piaccia. Un saluto, Chiara. Arrivano mail invece da momenti particolari della propria vita. Leonardo, anche io provo a scrivere il mio racconto della serie Io sono qui o voi siete qui, anche se mi rendo conto che è audace e pretenzioso da parte mia. Mi chiamo Leo, ho 33 anni, sono farmacista, cantante, couchsurfer e da poco cardiopatico. Sono un tipo particolarmente aritmico. Io sono qui in un letto d'ospedale aspettando di fare domani una procedura al cuore, perché suona così drammatico dire intervento al cuore. Credo che procedura sia meno incisivo, perché non sono un fan del pathos. Questa mail è datata 30 ottobre, quindi Leonardo sarà stato evidentemente operato, o meglio, avrà avuto questa procedura al cuore, e quindi sicuramente vi leggerò il suo racconto, che era molto bello. Un altro paio, facciamo in tempo un altro paio, sì, ad esempio, ecco, mi piace quelli che mi scrivono: non sono uno scrittore, nessuno di noi lo è, ragazzi, nessuno di noi è uno scrittore, si cercano semplicemente episodi della propria vita e poi ve li raccontiamo in diretta. Cari amici di Voi Siete Qui, vi invio la mia brevissima bellissima storia, questa è un'altra Chiara. Non so nemmeno io il perché. Non ho mai avuto il pallino di fare la scrittrice, e questo lo verificherete voi stessi se la leggerete. È solo che il vostro programma mi prende così tanto che oggi, subito dopo aver ascoltato la storia di Fausta e dei 5 giorni di felicità, Fausta era quella che è andata a San Francisco al buio, mi è venuta voglia di raccontare la mia storia, che come tante altre che ricevete, ha come protagonista un nonno. Sono davvero contenta di aver potuto condividere questa storia con qualcuno, ho come la sensazione che scriverla sia stato in qualche modo terapeutico. Grazie Chiara. L'ultimissima Graziella. Matteo, buongiorno. Non ho capito bene quanto dovrebbe essere corta la storia, o anche lunga, una pagina più o meno. Se dovesse interessare la posso tagliare, se lo riterrete necessario fatelo voi. Ti seguo con il cuore che ride e a volte che si stringe, ma sempre con vera emozione. Graziella 65. Continuate a scrivere i vostri racconti e le vostre mail di accompagnamento, vi prego, a voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Stefano D'Andrea, a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Alberto e parlava di fiducia. Quella di domani è la storia di Dodo e parla della colonna sonora della nostra vita. ...1989, Milano. L'aria di maggio è fresca e Milano sembra quasi una bella città. Il cielo è azzurro. Sono solo 3 mesi che stiamo insieme, ma abbiamo tutte e due l'impressione che questa storia sarà diversa dalle altre. Siamo in macchina, abbiamo appena finito la nostra prima discussione. Stiamo in silenzio. All'improvviso la radio trasmette Baby Can I Hold You di Tracy Chapman. È il miglior modo per fare la pace. Ma quelli della radio come facevano a sapere che avevo bisogno proprio di quella canzone?